ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Mattino. Cosa ci sarebbe di anormale ad indossare una mascherina e stare un po' a distanza e lavarsi le mani? Cos'è di anormale? Cosa limita la libertà personale? Ma davvero, io continuo a non capirlo. La mia libertà, io vado a giro tranquillo, me la indosso, non capisco. Libertà uguale no mascherina, ma dove sta questa libertà? Ma dargli la cassa integrazione e lasciarli a casa a questi contestatori che fanno pur parte dei controllori? Io credo che invece di andare ad alzare questo polverone inutile pubblicamente, prima dovrebbero chiarirsi con i loro superiori, penso. E hanno ragione questi uomini della polizia locale o vigili urbani che si dica a manifestare con i no mask? Ci state prendendo per il culo letteralmente. Nel 2019 ha fatto più morti l'influenza e più gente in terapia intensiva. Non ce la state raccontando giusta e prima o poi la verità verrà fuori e allora ci sarà da ridere. Oh, ogni tanto facciamo sentire anche ascoltatori così, ma per darvi un po' la misura del fatto che c'è un mondo che al Covid non ci crede. Io non, guarda, veramente non so più che cosa fare, non so più che cosa fare e cosa dire. C'è un'intera comunità scientifica che mette in allarme sui rischi di questa pandemia, sui rischi di questa malattia. I racconti che abbiamo sono quelli che sono quelli che abbiamo fatto e che vengono testimoniati quotidianamente dagli ospedali e nei reparti di terapia intensiva. Gli studi scientifici iniziano a dirci adesso che ci sono delle conseguenze di lungo termine che ancora non conosciamo e che comprendono anche danni neurologici e problemi al sistema cardiocircolatorio. Ed è possibile che noi tutti, con tutta la comunità scientifica, con tutti i governi del mondo, ci mettiamo d'accordo per fregare lei, caro ascoltatore? Ma io non, veramente, è una cosa incredibile. Solo voi avete capito la verità. Dai, su! Ma ci ragioni un po' su questa cosa, per gentilezza, ci ragioni un po', eh? E sono d'accordo invece col primo che diceva: ma che problema c'è, ragazzi, ma mettete sta mascherina. Lo ripeto, il tweet di Tiziana Maiolo era perfetto, eh. Insomma, mettiamoci questa mascherina e basta frignare. Basta frignare, mettiamo la mascherina, punto, eh. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, tutto quello che volete. Ovviamente, tutto quello che volete. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 9 ottobre, sono le 7:22 minuti e scusate se mi sono scaldato, scusate. Diamo come sempre prima di tutto un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, ai titoli principali che sono in gran parte ovviamente sul Covid. Contagi, ritornano le zone rosse, il titolo della Stampa. Corre il contagio, pronto il giro di vite, è quello del quotidiano nazionale. Il Manifesto lo dedica invece ai test, quelli drive-in, drive-thru, così si dice, quelli passi con la macchina e ti fanno il test. Crash test, scrive il Manifesto, perché le file sono state lunghissime. Il Fatto Quotidiano: è come 6 mesi fa? No, ora va meglio. Tutte e due le cose sono tra virgolette perché interpellano 4 tra virologi, microbiologi, Comitato Tecnico Scientifico, eccetera, eccetera, e ognuno dice la sua. Ricominciamo, come ad aprile. Contagi, sì, alle chiusure dei locali, è il titolo del Corriere della Sera. Virus, allarme per i pendolari, è quello del Messaggero. Il virus non dà tregua, scatta l'allarme negli ospedali, è il titolo della Repubblica. Ora il lanciafiamme di De Luca fa cilecca, è il titolo di Libero, e verremo poi alla questione della Campania. Avvenire e La Verità si dedicano alle finanze vaticane, Avvenire con le parole del Papa, la cura Francesco solo finanza pulita, e La Verità, la società di intelligence del cardinale e della dama. Si parla ovviamente di Becciu e della Marogna, Cecilia Marogna, la sua collaboratrice della quale abbiamo parlato nei giorni scorsi. Il Sole 24 Ore apre con le parole di Di Maio all'incontro di ieri all'evento del Sole e del Financial Times, Made in Italy the Start. Era questo il titolo dell'evento. Di Maio, imprese e istituzioni devono camminare insieme. Il tutto accompagnato da un editoriale del direttore Fabio Tamburini, che scrive che ora serve passare dalle parole ai fatti. Il Giornale apre con una lunga intervista a Giulio Centemero, tesoriere della Lega. Ecco la verità sui soldi della Lega. E vorrei arrivarci poi a questa intervista a Centemero, perché è sicuramente interessante. Da cosa iniziamo? Sapete da cosa iniziamo? Iniziamo dal motivo per il quale ogni tanto si esprime qualche preoccupazione quando lo Stato decide di entrare in economia, entrare nelle compagnie, entrare nelle aziende. Il perché lo illustra plasticamente, ancora una volta, la mitologica vicenda di Alitalia. Siamo a pagina 13 del Messaggero. Vi basti il titolo, ma adesso scendiamo nel dettaglio. Newco Alitalia sarebbe la nuova società, quella che si formerà e che sarà la nuova Alitalia. Newco Alitalia, ecco il decreto. CDA a 9 per accontentare tutti. E certo, perché ognuno deve avere il suo posto in CDA. Nel dettaglio, ieri è stato firmato il decreto interministeriale che doveva dare il via libera alla nuova compagnia, che avrà poi la famosa dote di 3 miliardi dentro, sempre nostri ovviamente. Ieri, che cosa è successo? I posti nel board, ossia nel consiglio di amministrazione della società della compagnia tricolore, sono passati magicamente da 7 a 9, mettendo fine d'incanto ai veti incrociati a una tensione che aveva raggiunto i livelli di guardia. Tant'è che sempre ieri si era diffusa la voce, scrive Umberto Mancini appunto sul Messaggero, che è riportata da Dagospia, che il presidente designato Francesco Caio, stanco del tira e molla, avesse addirittura intenzione di abbandonare il campo. Salvo sorprese, insieme al decreto arriverà anche il bollino ufficiale sugli incarichi di vertice. Comunque, se Caio, un tecnico molto valido e considerato vicino al Premier, essendo stato scelto proprio da Giuseppe Conte, Lazzarini, che sarà l'amministratore delegato, Fabio Lazzarini, viene invece stimato da ambienti del PD. Quanto al resto del consiglio di amministrazione, ci sarà un esponente indicato da Italia Viva, mentre le altre poltrone verranno divise tra pentastellati e Democrat, una partita che sarà comunque aperta fino all'ultimo istante, visto che a Palazzo Chigi si stanno esaminando a fondo le eventuali incompatibilità. Quindi un CDA che, per carità, magari sarà di gente straordinariamente preparata, e di questo siamo certi, e che però nella sostanza viene spartito dalla politica. Nel frattempo, racconta Roberta Amoruso sulla stessa pagina, c'è un buco nei ricavi e la cassa azzerata, e avanza lo spettro dei 5.000 esuberi, perché mica è finita la crisi, perché poi tra l'altro, oltre alla crisi storica di Alitalia, i problemi finanziari storici di Alitalia, si innesta anche il Covid, che come ben sappiamo riduce i viaggi, riduce i ricavi. Nel 2019 Alitalia ha perso 600 milioni, nei primi sei mesi dell'anno segnati dal Covid ha bruciato 427 milioni a livello operativo, ma alla fine del 2020 si preannuncia davvero buia per la compagnia, visto che solo nei primi nove mesi si sono lasciati per strada 2,2 miliardi di fatturato. Ed eccola qua. A proposito di questo, c'è la pagina del Sole 24 Ore che ci parla di Atlantia, o attenzione, poi ne parliamo con Paolo Mieli alle 8:15. Siamo alla vigilia della presunta caducazione, l'ultimatum del governo ad Atlantia: o troviamo l'accordo su autostrade oppure toglieremo la concessione. Ci sono spiragli dopo lo scontro, ci raccontano Laura Galvagni e Manuela Perrone, che nel sommario del pezzo il titolino è l'eterna trattativa, perché stanno andando avanti da un po' oggettivamente. Tra governo e ASPI resta un ultimo ostacolo: l'obbligo del trasferimento a Cassa Depositi e Prestiti del controllo, cosa che Atlantia non vorrebbe. Il concetto è: trasferiamo il controllo, ma non necessariamente a Cassa Depositi e Prestiti. E c'è lo spettro del fallimento, perché in caso di revoca Atlantia sarebbe a rischio default. Il tutto accompagnato da un commento, da un editoriale, un commento di Alberto Rioli, del vice direttore del Sole 24 Ore, il quale dice: attenzione, se ci sono delle partite, e il caso della vicenda Nexin è un esempio, nelle quali il capitalismo di Stato può mettere in atto delle operazioni ambiziose, ce ne sono altre sono altri casi sui quali accendere i riflettori. E sono le tre partite lasciate un po' per strada in questo periodo di pandemia: Alitalia, Autostrade I e Ilva. Nel complesso sono oltre 32.000 addetti, ciascuno incarna il destino di un'Italia ancora in cerca di una rotta per il futuro in altrettanti settori strategici. E non è un bel segnale nel momento nel quale l'Europa ci chiede proprio di avere il coraggio della visione per investire la generosa dote che ci ha accordato sulla carta, nel complesso oltre 230 miliardi. Ricorda tra l'altro Rioli che l'Ilva, e ha ragione, sembra quasi uscita dai radar in questo momento, e aggiunge: tra Ilva e Autostrade c'è un filo comune rappresentato da Lucia Morselli, che è l'amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, cooptata il 25 settembre come consigliere di Atlantia, la holding dei Benetton che ingloba ASPI. Ma non solo, c'è anche la stessa parabola di un governo che pensa alle nazionalizzazioni, ma che presto si deve confrontare con le velleità di quella posizione rispetto alle complessità poste dal business e dal mercato, oltre che dalle regole. Chiude Orioli dicendo: lo Stato, quando fa l'imprenditore, rischia di impigliarsi nelle sue stesse contraddizioni, perché non fa impresa, fa politica. Così chiude il pezzo di Orioli, e aggiungiamo noi: la vicenda del CDA di Alitalia sembra dimostrarlo. Una pausa. Mattino. Alitalia va chiuso, è un anacronistico retaggio del passato, uno stipendificio che ormai non ha più senso di esistere. Non serve più avere la compagnia di bandiera, soprattutto se non funziona e soprattutto se è un buco nero per i soldi pubblici. Ma c'hai ragione, ma non è possibile. Operatore sanitario come me, tutti i giorni una mascherina, doppia mascherina, 3.000 attenzioni. Queste persone però, quando poi vengono in ospedale, vogliono vedere l'operatore sanitario con la mascherina perché hanno paura di essere contagiati. Non abbiamo paura delle mascherine, abbiamo paura di rimanere a casa altri 6 mesi, abbiamo paura di perdere le terapie per i disabili, abbiamo paura di rimanere bloccati, di prendere 600 euro di multa per portare i nostri cari in ospedale, abbiamo paura che salti un altro anno scolastico. Ecco di cosa abbiamo paura. Mi stupisco che ancora ti stupisci, ma se esistono i terapeutisti, vuoi che non esistano i complottisti o quelli che ce l'hanno tutti quanti con loro? Eh già. Del resto, se c'è gente che è convinta che ci sia un complotto mondiale per dirgli che la Terra è piatta, no, ma il ragionamento fila. Dunque, andiamo proprio alla questione di Covid. Così diamo la misura di quello che sta succedendo in Campania, che è la regione in maggiore difficoltà in questo momento. Testimonianza che il problema c'è, che se ne dica. Giuseppe Del Bello sulla Repubblica ci dice questo: il sold out c'è così lo chiama, ed è grave. Per ora riguarda le terapie subintensive, quei reparti limbo dove i pazienti in insufficienza respiratoria non grave vengono trattati per evitare di finire in rianimazione. È l'ultima spiaggia prima di gettare la spugna. Il rischio di finire alle corde è diventato evidente ieri pomeriggio, quando un anestesista dell'ospedale San Paolo di Napoli ha lanciato l'SOS per trasferire un paziente con gravi problemi respiratori. Nessun presidio aveva disponibilità. E alla fine, dopo un vorticoso giro di telefonate, è arrivato il via libera solo dal Loreto Mare, dove erano attivi 10 posti di subintensiva, di cui 9 occupati. Questi sono i numeri, questa è la dimensione. Va decisamente peggio con le degenze ordinarie, sempre correlate all'infezione. Di 665 letti ne sono occupati già 550. Anche qui, se si andasse verso il tutto esaurito, si attingerebbe probabilmente, sottraendo posti alle patologie non Covid, dai 16.000 posti letto che complessivamente caratterizzano la recettività ospedaliera del settore pubblico. Ci va giù duro Libero, che, come dicevamo, ha aperto con questo titolo "Ora il lanciafiamme di De Luca Facci lecca", e affida il pezzo a Filippo Facci, il quale ovviamente prende un po' in giro, per così dire, De Luca, il viceré Borbone, appena rieletto a furor di popolo governatore della Campania, ha fatto un po' il francese, sfotticchiando le regioni nordiche, invocandone la chiusura e trattando il Covid come un prodotto forestiero che lui, con la sua pistola da sceriffo, anzi il suo bazooka, avrebbe fermato al confine della contea. Beh, è andata male, perché la Campania comincia seriamente ad assomigliare a quella Lombardia che De Luca tanto criticava, ma non certo nella qualità sanitaria. Il neogovernatore, votato da 2/3 dei napoletani, vede scontornarsi la sua stella di sceriffo proprio mentre la sua regione non lascia più dubbi. Il Covid la sta trasformando in un Far West, così Filippo Facci su Libero. Ma non è che in Lombardia non ci sia preoccupazione, ovviamente, se prendiamo il pezzo della Stampa a pagina 7, che ci parla di una Lombardia che torna nell'incubo. Evitiamo un nuovo lockdown. L'ipotesi peggiore per ora è solo sulla carta, scrivono Fabio Poletti e Francesco Rigatelli. Ma il virus anche in Lombardia continua a galoppare. Ieri 683 casi, 163 in più del giorno prima, il 15% a livello nazionale. Al momento c'è solo l'obbligo della mascherina, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 gennaio. A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha mandato le forze dell'ordine nei luoghi della Movida, ma non basta. Per Walter Ricciardi, il consigliere del ministro della Sanità Roberto Speranza, Lombardia e Campania rischiano di diventare zone arancioni, con il divieto di uscire dai confini territoriali o di finire addirittura in lockdown, magari locali per piccoli cluster, tipo il campus dell'Università Bocconi, dove da ieri ci sono 180 studenti in quarantena, per chi non l'avesse notato. Ovviamente le preoccupazioni che si raccolgono più forti sono quelle dalle aree già colpite, come Nembro in Val Seriana. Il sindaco Claudio Cancelli dice: un lockdown come quello fatto a marzo o ad aprile non se lo può permettere nessuna nazione europea, sarebbe un danno sociale ed economico enorme, e questo è chiaro a tutti. Proprio per questo andrebbero prese tutte le precauzioni e sicuramente bisognerebbe non andare in giro a schierarsi contro l'utilizzo della mascherina, che non è l'unica protezione, ovviamente ci vuole anche il distanziamento sociale, lavarsi le mani, disinfettare, eccetera eccetera, però è un presidio importante. Eppure domani a Roma, Piazza San Giovanni, ci sarà la marcia che mette insieme un pezzo del mondo sovranista e i no mask, sostenuti da Enrico Montesano e Rosita Celentano. Ne abbiamo parlato poco fa alle 6:45. Ne scrive Sebastiano Messina, dice che la protesta può diventare un focolaio, ed è effettivamente così. Perché Il legittimo diritto a contestare l'obbligo della mascherina comprende e assorbe la violazione della legge che lo impone? Naturalmente no. La disobbedienza civile evocata da Montesano, dall'ex conte Tacchia, è un'altra cosa e comporta qualche conseguenza. 45 anni fa Marco Pannella contestò la legge sulla droga fumando uno spinello in pubblico e invitò lui stesso un commissario di polizia ad arrestarlo e finì davvero in carcere. Ma la sua fu una disobbedienza solitaria, mentre sabato potremmo trovarci ad assistere a un rifiuto di massa compiuto da una folla che non ha nessuna intenzione di affrontare le conseguenze, e quindi il rischio è di trasformare la piazza in un cluster di coronavirus. Da segnalare, perché per certi versi tutto il mondo è paese, che lo scontro tra enti locali e governo sulle misure contro il coronavirus non avviene solamente in Italia, ne parleremo poi tra poco, non di questo nello specifico, ma parleremo appunto dello scontro tra governo ed enti locali con il presidente della regione Emilia-Romagna e presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini. Però Paola Peduzzi sul Foglio in un pezzo che si intitola "No, l'anarchia non è una forma di libertà", ci racconta che cosa è successo a Madrid e a Londra. A Madrid i giudici hanno negato l'autorizzazione alle misure di restrizione anti-Covid volute dal Ministero della Salute spagnolo per la capitale e per 9 cittadine limitrofe. Queste misure impattano sui diritti e le libertà fondamentali di 4,5 milioni di persone. Di fatto, cosa ha fatto il governo spagnolo? Ha imposto una sorta di zona rossa a Madrid, facendo sì che le persone non potessero lasciare la città se non per ragioni urgenti di lavoro, di scuola e sanitarie. Ebbene, i giudici hanno negato l'autorizzazione sulla base del ricorso effettuato dalla governatrice della regione, decisione che è stata determinata appunto da un conflitto di competenze. Scontro istituzionale che non riguarda soltanto la Spagna. Anche nel Regno Unito, dove le difficoltà sono forti, i sindaci di alcune regioni dove il contagio è aumentato più che altrove si sono ribellati al governo. Vogliamo discutere e decidere insieme le misure da adottare e soprattutto vogliamo i fondi per affrontare questi parziali e localizzati lockdown. Non c'è modo che io accetti la chiusura di qualsivoglia attività senza che sia stabilito un piano di congedi dal lavoro a livello locale, ha detto il laburista Andy Burnham, sindaco dell'area metropolitana di Manchester. Anche in questo caso, come in Spagna, c'è un conflitto tra governi locali e governo centrale, ma lo scontro è ben più profondo e Paola Peduzzi ci parla di quella che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiama Covid fatigue, la stanchezza da pandemia, un fattore che quando parlavamo di entrare e uscire dai lockdown come nuova normalità non avevamo considerato. E se volete collegare questo ragionamento, la fatica da Covid, la stanchezza da Covid, la stanchezza da pandemia, al pezzo che vi abbiamo appena letto di Sebastiano Messina, e sui no mask, una connessione forse c'è. Traffico. Fatemi toccare un po' di politica, qua l'attenzione su molti giornali si concentra su Roma, su quello che succede, le candidature, chi si candida a sindaco. C'è un pezzo delizioso sul Corriere della Sera, a pagina 13, di Fabrizio Roncone, che vi dà proprio l'idea, no? Un po' tra la terrazza romana, il racconto, gli WhatsApp che arrivano tutti l'altra sera a cena nella casa con vista sugli angioloni di Castel Sant'Angelo, i divani rosso pompeiano, una coppia di levrieri afghani annoiati. Tutti sapevamo che prima o poi saremmo finiti a parlare di quella roba lì. È successo tra lo sformato di zucchine e caciocavallo podolico e le polpette di bollito fritte. La padrona di casa chiede all'ospite d'onore del PD: allora, ministro, ci confermi che sarà Sassoli il nostro futuro sindaco? Il ministro, sguardo ambiguo: Sassoli fa i capricci. Temo che stia pensando a un colle più alto del Campidoglio. Chiacchiere. pettegolezzi, colpetti di scena, mentre a tavola, direttamente dalla pasticceria preferita da Nanni Moretti, arriva una magnifica sacher. Sul cellulare di un'amica della padrona di casa entra un WhatsApp e Carlo Calenda: sono gli ultimi giorni, sto decidendo se candidarmi a sindaco di Roma, tu cosa ne pensi? Letto ad alta voce, è scattato l'applauso. E allora inizia la grande partita per scegliere chi candidare alla guida della capitale, con appunto quest'ombra di Carlo Calenda che si staglia su tutto. E come scrive Giuliano Ferrara, per Calenda sindaco, c'è un commento anche qua molto bello, no? Sul Foglio: per Calenda sindaco umile, primarie, talenti e patti di lealtà per il PD, questa la definisce Giuliano Ferrara, c'è una manna dal cielo. La politica discute anche di questo, così come discute, o meglio, un po' passata sotto traccia. Oggi ci ritorna il giornale e ci apre sulla vicenda dei soldi della Lega, le inchieste che riguardano la Lega. E il giornale lo fa intervistando l'uomo che è stato considerato un po' al centro di tutto. Chi è? È Giulio Centemero ed è il tesoriere della Lega. Fa una lunga intervista con Stefano Zurlo nella quale risponde a un po' di accuse. Dice per esempio gli investigatori, si parla dei 49 milioni di euro, i famosi 49 milioni di euro di rimborsi elettorali che non si sa dove siano finiti. È un capitolo sempre aperto, chiede Zurlo. Perché? Risponde Centemero. Gli investigatori sospettano che almeno 10 milioni siano arrivati in Lussemburgo. No, io in Lussemburgo ci sono passato un paio di volte in macchina. I soldi, chiede Zurlo, sarebbero usciti da una filiale della Sparcasse di Bolzano e sarebbero stati investiti nel fondo lussemburghese Pharos Management dopo un valzer di passaggi e spostamenti tra fiduciari e conti di transito. Nega anche questa ricostruzione? Falso. I 49 milioni sono stati spesi, come ha sempre detto Matteo Salvini, per mantenere la Lega. Nessuna cospirazione, nessun intrigo, nessun giro strano all'estero. Non le pare una giustificazione un po' vaga, molto vaga, chiede Zurlo? E allora le do una notizia. Ne arriva una super perizia che abbiamo affidato ad una delle Big Four, che sono le grandi società di consulenza, ve lo dico io, per ricostruire tutta la contabilità della Lega fra il 2010 e il 2017, quando ci sono stati i primi sequestri. Sarà pronta fra poche settimane e sarà, nei limiti del possibile, esauriente. Vedremo che cosa emergerà appunto da questa super perizia. Ancora, io sono abbastanza certo che ci torneremo tra poco con Paolo Mieli, la vicenda Palamara, e restiamo sul giornale. Ci apre anche il Riformista il processo farsa per Palamara, che deve lasciare la magistratura. Oggi ci sarà la sentenza e ci sarà la decisione per il procuratore generale Piero Gaeta. Palamara deve essere cacciato perché colpevole di condotte molteplici e plurioffensive, organizzatore, regista e sceneggiatore della strategia nella quale ha avuto un ruolo primario. Al centro di tutto l'ormai famosa riunione all'hotel Champagne, nella quale si trovò insieme al deputato renziano Cosimo Ferri, a Luca Lotti, a discutere di nomine. A quella riunione c'erano anche altri 5 giudici e si trattava di membri in carica del CSM, che però continueranno a fare i giudici. E su questa base, dice il titolo, è proprio su questo, nel pezzo di Luca Fazzo, no? Un processo farsa perché non sono stati sentiti nemmeno i testimoni della difesa, e alla fine a pagare sarà presumibilmente soltanto Luca Palamara. La vicenda Vaticana, invece, a proposito di soldi, abbiamo parlato di quelli della Lega, parliamo di quelli del Vaticano. Avvenire dedica una pagina con Mimmo Muolo al Papa, che scrive, che dice: via i mercanti dal tempio, richiama l'esigenza di una finanza pulita, mentre i giornali si riempiono di nuovi dettagli sulla vicenda del cardinale Becciu, che tra l'altro ieri ha incontrato il Papa, a quel che si apprende. Dalla Repubblica peschiamo questo, pagina 19: il Vaticano di Becciu scommetteva sul crack delle società in crisi. Ragazzi, ne stanno uscendo veramente di ogni ormai, dalle borse e dalle poltrone frau comprate appunto all'investimento delle società nelle società in crisi. Furono acquistati derivati della Hertz, poi fallita, e di un'azienda accusata di disastro ambientale. Ieri incontro tra il Papa e il Cardinale, appunto il pezzo di Massimiliano Coccia, sono anticipazioni di quello che si troverà sull'Espresso, e siamo a pagina 19 appunto del quotidiano La Repubblica. Infine, con cosa chiudere? Direi con il Sole 24 Ore. Ieri, come sapete, come vi abbiamo raccontato, c'è stato il nuovo appuntamento insieme al Financial Times su Made in Italy The Restart. Un appuntamento che ieri ha visto protagonista sostanzialmente il ministro Luigi Di Maio, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il quale ha proposto un patto tra istituzioni e mondo produttivo. Qua trovate la cronaca di Gerardo Pelosi a pagina 3 del Sole 24 Ore e l'editoriale del direttore Fabio Tamburini che inizia a pagina 1 e prosegue appunto a pagina 3, il quale ci dice che, riassumendo anche un po' quello che si è sentito in questi giorni, che la richiesta generalizzata è di concretezza, come hanno ricordato il vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione Barbara Beltrame Giacomello, il vicepresidente per le filiere e le medie imprese Maurizio Marchesini, chiedendo da una parte il rifinanziamento del fondo per l'internazionalizzazione delle medie imprese e chiedendo dall'altra parte il rilancio di Industria 4.0. E questo è l'idea, è di passare dalle parole ai fatti in questo patto tra istituzioni e mondo produttivo. GR24, ci risentiamo tra poco con ovviamente il punto con Paolo Mieli, avremo con noi Stefano Bonaccini e poi parleremo con una virologa per fare un punto sul virus, a tra poco. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.